Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 22 febbraio 2015, via libera alla biofumigazione, alternativa verde per la conservazione dei cibi. Fino a qualche anno fa questa tecnica era stata studiata soprattutto per integrare la difesa delle coltivazioni. Ora però la biofumigazione delle brassicacee potrà trovare un'applicazione anche nell'industria di conservazione della frutta, come delle granaglie. Le brassicacee, cioè cavoli, broccoli e affini, attraverso la biofumigazione liberano infatti molecole particolarmente efficaci contro i funghi che infestano le colture, ma anche contro gli agenti che accelerano il deterioramento del raccolto. La scoperta è stata presentata dopo alcuni anni di sperimentazione dal Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna, che appartiene alla rete del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura. Fin qui la notizia del 22 febbraio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radici nel presente in questo 2012. La ricerca sulla biofumigazione delle brassicacee per la difesa delle colture è avviata da anni. Ora però si stanno aprendo nuove prospettive. Luca Lazzari, ricercatore del Centro di Ricerca per le Colture Industriali di Bologna. Questi materiali sono in grado di rilasciare delle molecole biologicamente attive che hanno la caratteristica di essere altamente volatili e sono nient'altro che i responsabili del pungente, del tipico aroma delle brassicacee, dell'aroma piccante della senape e della mostarda, ma possono offrire un interessante sviluppo e applicazione durante la coltivazione proprio per la difesa delle colture. Si può ipotizzare che possano avere anche una applicazione, e i nostri studi lo stanno anche dimostrando, un'applicazione nella difesa delle produzioni agricole in fase di post raccolta, quindi sia di materiali freschi, quindi frutta principalmente, ma anche dei materiali secchi e granaglie in generale. Tra tutti i settori della biofumigazione è quella che ancora richiede ulteriori studi, ma che può essere una prospettiva applicativa importante, soprattutto perché per scelta comunitaria la registrazione dei fitofarmaci di origine chimica sono sempre più difficoltose nell'ottica di una ricerca di un minore impatto ambientale. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.